Riposate, vezzose ragazze, rinfrescatevi, bei giovanotti. Tornerete a far presto le pace, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. Ehi, caffè! Cioccolata, azzerina, giudizio. Sorbetti, confetti, azzerina, giudizio. Poi che comincia la sera, innamoro potria terminarsi, innamoro potria terminar. Sei pur vaga, brillante, zerlina. Sabato, la piccola fa festa. Sei pur cara, già notta, saldrina. Oh, capo che ne cade la testa. Il nasetto mi pastra l'unato. L'apricona mi bisogna il cervello addondato. Tocca a buchi di cade la testa. Quel nasetto mi pastra l'unato. Mi bisogna il cervello addondato. Cervello addondato. Quel nasetto mi pastra l'unato. Mi bisogna il cervello addondato. Cervello addondato. Mi bisogna il cervello addondato. Venite pur avanti, vezzose mascherette, è aperto a tutti quanti, viva la libertà. Siamo nati a tanti segni, Bye. Orini, ma cosa fate? Orini, ma cosa fate? Orini, ma cosa fate? Non sperate, non sperate! L'Empio crede con tal fronte! Donna Elvira! Sì, avvocato! Don Ottavio! Sì, signore! Ma credete! Protettore! Protettore! Protettore! Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, si sa! Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, si sa! Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, si sa! Tutto, tutto! Accetto, ma non ci avvezzaste, non credesti sicuro i miei pari come le donne a forza di danari. Non parliamo più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico? Pur che lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me sono necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro. E avete cuore di ingannarle poi tutte? E tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno il mio buon naturale chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste? Odi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira? Io? No. Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Or io con lei vo tentar la mia sorte ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio gli appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potesse presentarmi col vostro? Han poco credito contendenti dal rango gli abili signorini. Sbrigati via! Signor, per più ragioni! Finiscila! Non so proposizioni! Thank you. amico che ti pare? Mi par che abbiate un'anima di bronzo. Va là che sei il gangonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla. Falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurla in altra parte. Ma signore, non più repliche. Se poi mi conosce, non ti conoscerà se tu non il vuoi. Zitto, e l'apre qui. Giudizio. E come vuoi? Vediamo che sa farti, per il broglio. Non te crede potrò che i pianti miei abbian vinto quel cuor. Dunque pentito l'amato Don Giovanni al suo dovere e amor mio ritorna. Sì, carina. Crudele, se sapeste quante lagrime e quanti sospiri voi mi costate. Io, vita mia? Voi? Poverina, quando mi dispiace. Mi fuggirete più? No, muso bello. Sarete sempre mio? Sempre. Carissima. Carissima, la burla mi dà gusto. Mio tesoro. Mia venere. Son per voi tutta fuoco. Io tutto cenere. Il birbo si riscalda. E non mi ingannirete. No, sicuro. Giuratela. Non giura questa mano che bacio con trasporto a quei bei numi. Ehi, sei morto. Un numi. Ehi. Par che la sorte mi secondi. Veggiamo. Le finestre son queste, ora cantiamo. Devieni alla finestra, mio tesoro, devieni a consolare il pianto mio. Se ne io me di dare qualche ristoro davanti agli occhi tuoi mori il buon Dio. Tu c'hai la bocca dolce più del miele, tu che il zucchero porti mezzo al cuore. Non esser gioia mia con me crudele, lasciati almen veder mio bel amore. C'è gente alla finestra, forse d'essa. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo. Qualcuno parla? Fermatevi, mi par che alcuno qui si muova. Se non fallo è Masetto. Chi va là? Non risponde, animo, schioppa il muso. Chi va là? Non è solo, ci vuol giudizio. Amici, non mi voglio scoprir. Sei tu Masetto? Appunto quello. E tu? Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni. Leporello, servo di quell'indegno cavaliere. Certo, di quel briccone. Di quell'om senza onore. Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo? Lo cerco con costoro e trucidarlo. Bagatelle, bravissimo Masetto. Anch'io con voi munisco per farglielo quel birbo di padrone. Ma udite un po', qual è la mia intenzione? metà di voi vadano e gli altri vadano là e pian pianillo cerchino lontano via di qua, no, lontano, lontano via di qua. Se un uomo o una ragazza passeggian per la piazza, se sotto una finestra fare all'amor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, il mio padron sarà in testa di un cappello con candidi pennacchi addosso un gran mantello e spada al fianco già e spada al fianco già e spada al fianco già e spada al fianco già e spada al fianco già. Se un uomo o una ragazza passeggia per la piazza, se sotto una finestra pare all'amor sentite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, metà di voi vadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino lontano via di qua, no, lontano non via di qua. Andate, fate presto, andate, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto. Tu sol verrai con me, tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. Noi partiamo il resto e tu vedrai cose, cose, cose. Noi partiamo il resto e già vedrai cose, cose, cose, e già vedrai cose, cose, cose, e già vedrai cose, e già vedrai cose, e già vedrai cose, e già vedrai cose.